Sì, hanno fatto un'affissione di un volantino abbastanza delirante davanti ai portoni di tanti centri antiviolenza. In questo volantino si citavano vari casi di cronaca di donne uccise da parte di clandestini, come sono definiti in questo volantino, con la scritta: di questi casi voi non vi occupate. Cosa assolutamente falsa, naturalmente, perché noi ci occupiamo di tutte le donne che subiscono violenza per mano maschile, siano esse italiane, straniere, sia che siano gli autori italiani o stranieri. Quindi ci è sembrato proprio un attacco pretestuoso e anche molto ideologico contro l'attività dei centri, che in questi giorni proprio sono in prima fila a lottare per i diritti delle donne minacciati da questa ondata ultradestra che vorrebbe abolire la legge, la possibilità di abortire, che attraverso il disegno di legge Pillon vorrebbe abolire addirittura la libertà di separarsi e di divorziare, perché questo in definitiva è l'obiettivo di quel disegno di legge, limitando tantissimi diritti delle donne. Cito anche la lotta che stiamo facendo come centri, come non una di meno, anche contro il decreto Salvini, che va a peggiorare le condizioni di vita delle donne straniere che subiscono violenza, che l'hanno subita nel percorso migratorio e che in Italia si troveranno escluse dai processi di aiuto. Tra l'altro, anche sulla base dei dati emerge che non è vero che voi non vi occupate anche di donne straniere. Avete diffuso i dati dei centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna, dove le persone straniere che si sono rivolte a voi, le donne straniere, sono il 34%. Certo, è una quota, direi, costante. Poi se andiamo a vedere gli autori, anche gli autori sono in quota simile italiani e stranieri, quindi in quota simile nel senso che un terzo degli autori di violenza è straniero e gli altri due terzi sono italiani. Anzi, nei centri antiviolenza spesso arrivano donne straniere che subiscono violenza da un italiano, che dopo la separazione dalla prima moglie, magari italiana, va in cerca proprio di una straniera perché la ritiene più debole, più insicura, con meno diritti, e quindi potendo esercitare su di lei una maggiore disparità di potere e controllo. Tra l'altro, nel volantino delirante di Evita Peron si mette in relazione la violenza di genere, la violenza appunto sulle donne, con i flussi migratori. Voi smentite questo legame? Assolutamente sì, nel senso che se anche non ci fossero i flussi migratori, la violenza di genere contro le donne sarebbe ugualmente presente nel nostro paese come in tantissimi altri paesi del mondo. Questione trasversale che va affrontata con un concerto di forze veramente ampio e non può semplicemente essere ridotta a un problema di sicurezza legato ai flussi migratori, assolutamente. Anzi, nei flussi migratori le donne vengono vittimizzate ancora di più. Nella quasi totalità dei casi sono oggetto anche di stupri, di violenze sessuali e certo, fisiche. A proposito, insomma, di questa azione, avete ricevuto anche solidarietà anche da Emma Petitti, quindi insomma anche dalla regione? Sì, assolutamente sì, la regione è sempre stata ed è sempre molto attenta all'attività dei centri, li sostiene in tutti i contesti e quindi la sentiamo molto al nostro fianco. Devo dire che una presa di posizione da parte delle istituzioni pubbliche ci ha fatto veramente molto piacere, ci ha dato la misura che i centri antiviolenza non sono da soli in questa lotta per conquistare sempre più diritti e sempre la possibilità di praticare questi diritti da parte delle donne.